Fra le righe. Letture, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Benvenuti, oggi Tra le righe presenta La voce del destino, l'ultimo libro di Marco Buticchi, un nuovo viaggio nel tempo e nella storia. E l'autore è in collegamento telefonico con noi, quindi diamo il benvenuto a Marco Buticchi. Eccolo qua, grazie per avermi contattato e per intervistarmi. Partiamo subito, senza voler svelare tutta la trama che è avvincentissima, lo diciamo immediatamente. La voce del destino è un romanzo che parte dal momento in cui Oswald Braille e Sara Terracini salvano una clochard da un tentativo di rapimento. Da qui scoprono chi è realmente questa donna che aveva fatto perdere le tracce di sé, che è stata una famosa cantante lirica, amica di Evita Perón, e che ha la chiave per raggiungere l'ingente patrimonio dei Perón. Oh, chiedo scusa, ti ho interrotto. Sì. No. Ti volevo dire che pensa che nasce da una folgorazione come tutti i miei romanzi, e questa clochard io la incontro davvero mentre sto fermo a un semaforo a Parigi. Vedo questa signora altera, alta, però una clochard, quindi vestita di cenci, che cammina, mi attraversa la strada, e come esercizio per passare il tempo mentre tornavo a casa, 10 ore di viaggio, mi immagino che cosa avesse fatto questa qua nella vita. E quindi l'ho inventato un passato tornandomene a casa. E quando sono arrivato a casa, dopo 10 ore appunto, il suo passato era già fatto, quindi la trama del libro è già imbastita. Cioè dal niente, cioè basta incontrare una persona. Basta una folgorazione, ma come nascono tutti i romanzi miei in fondo, da piccole folgorazioni, da un incidente di percorso dal quale poi sviluppo la trama. Beh, non è da tutti, diciamolo. No, ma guarda che penso che sia una cosa comune, sai, il Dostoevsky penso che insegni in questo. Nei suoi romanzi c'è sempre un elemento, un anello, una nave, delle statuette, che fanno da perno, attorno a cui ruotano sempre oscuri disegni per la realizzazione di un potere quasi sovrannaturale. Nella voce del destino troviamo la lancia di Longino, che è legata a numerose leggende. Cosa l'ha attirata verso questa lancia? E qual è stato l'effetto calamita che le ha fatto scegliere questo oggetto? Oppure anche lì è stato un incidente di percorso, diciamo? Giovanni, nel suo Vangelo, dice che a un certo punto il costato del Cristo viene trafitto da una lancia. Da qui sgorgano acqua e sangue che sono capaci di regalare poteri sovrannaturali, come l'invincibilità e l'immortalità. Ma la storia di questa lancia è ancora più antica, la lancia risale infatti ai miti celti, si dice che gli dei celti quando abbandonarono la terra fecero loro agli uomini di 3 oggetti che avrebbero resi simili a loro. Uno di questi era appunto la lancia sacra. La lancia sacra è oggi custodita nel museo di Vienna, Hofburg mi sembra che si chiami, e la vedi lì in un angolo e ti sembra un oggetto non così carico di carisma come un oggetto che vorresti immortale e che capace di rendere, cioè che vorresti capace di rendere immortali e invincibili. Tra le tante mani di grandi condottieri che hanno stretto questa lancia, da cui figura Napoleone e non chissà quanti altri, nel 1938 un certo Adolf Hitler fa l'Anschluss, quindi l'annessione dell'Austria, proprio pare per prendere questo oggetto che diventa un oggetto di culto del nazismo. I nazisti lo sotterrano prima lo mettono nella chiesa di Santa Caterina a Norimberga, e poi quando incominciano gli alleati a bombardare la Germania lo nascondono da qualche parte. Churchill dà ordine ai suoi, dice: oh ragazzi, appena prendiamo Norimberga andate a cercare questa lancia perché ne facciamo sberleffi del loro credo. E finalmente il 30 aprile del 1945 alle ore 14:10 il generale Patton estrae questa lancia da un bunker sotterraneo, e nelle stesse ore nel bunker di Berlino Hitler si suicida. Ma c'è chi dice che questa lancia non sia la vera lancia di Longino e che Himmler l'abbia fatta duplicare da un artigiano giapponese. Beh, ma se quella non è la lancia vuol dire che allora c'era Hitler, e allora Hitler è ancora invincibile e quindi è immortale, e allora Hitler probabilmente l'ha portata via con sé durante un suo lungo viaggio. Qui mi fermo e ti dico che ieri è apparsa una notizia, l'Ansa ha diramato una notizia in cui 2 scienziati, studiosi inglesi sono convinti che Hitler non non sia morto nel 45 nel bunker, ma sia morto nel 62 in Argentina, che è la patria del mio nuovo romanzo. Difatti, la cantante, questa clochard Luce De Bartolo, è braccata da questo gruppo di filo nazisti che vorrebbero riportare in vita un quarto Reich e pensano che da questa lancia possano avere appunto questi poteri sovrannaturali, però dovranno vedersela con i nostri Oswald Braille e Sara Terracini, che i suoi lettori conoscono sicuramente a memoria. Sono due persone, mi hanno colpito moltissimo, perché sono due persone, io direi, particolarmente normali, non sono dei supereroi, addirittura Oswald Braille è l'agente più basso della storia dei romanzi. È un nano. E Sara Terracini è molto timida, quindi... Una normale studiosa di cose antiche, quindi riservata, bella, bellissima, mentre invece lui è un nano, e quindi formano una coppia piuttosto singolare. Io ero stanco mi perdoni il grande Fleming, ma ero stanco di questo agente segreto alla 007 che incontra 10 donne, le tromba tutte 10, poi odora un liquore, dice che è un Don Perignon del 56, non del 57, guida la macchina come Schumacher, insomma. Ci voleva un uomo, e quindi ho scelto un men che uomo, un nano, però dotato di una testa grandissima e di una prontezza di spirito unica, che lo tira fuori da mille magagne, sono spesso magagne che sono capaci di compromettere l'esistenza del mondo intero. Ecco, una cosa che mi preme dire è che in ogni romanzo c'è sempre un fondo storico che cerco di ricostruire con estrema precisione. E infilando le mani in questo fiume lento che è la storia, e spesso tiri su dei pesci che sembrano dei pesci marci. E allora, assieme a questa epopea dei nuovi nazisti, ci sono delle documentazioni storiche che probabilmente tanti non conoscono o conoscono per sentito dire, ma che forse leggendolo mi invitano ad approfondire. Ed ecco questo, una cosa bella di chi scrive, suscitare la curiosità nel lettore. Io direi che La voce del destino suscita anche un senso di inquietudine, perché il nazismo è una ferita ancora aperta, e quindi quella domanda che le fanno frequentemente, no? Tra il confine, cosa c'è tra il confine della fantasia, dove finisce la fantasia, dove inizia la realtà, forse è una domanda più dettata dalla curiosità che da questo senso di inquietudine, della serie rassicuraci, dici che non tornerà il nazismo. Sai, il nazismo è una partita chiusa con estrema fretta, perché in quei giorni gli interessi e le esigenze erano tutt'altro, quindi tu immaginati che cosa succedeva in una guerra che finisce. Non interessano neppure gli ori alla gente che esce dalla guerra, l'importante è farla finita il più presto possibile. E il fatto che gente come Bormann abbia fatto perdere le proprie tracce è una cosa che mi fa paura, perché ufficialmente Bormann muore il 1 maggio del 1945, ma come mai, se è morto a Norimberga, la grande enclave che processa tutti i nazisti, viene processato in contumacia? Non puoi processare un morto perché è latitante. E quindi c'è qualcosa che non funziona. La storia, ancora una volta, non ce l'ha raccontata tutta. La storia viene scritta sempre da coloro i quali vincono, e sicuramente non sarà aderente alla realtà, perché c'è qualcuno che la manipola con qualsiasi interesse. Beh, noi sappiamo a memoria, adesso così mi viene in mente Priebke, che è stato trovato anni dopo. In una piccola città argentina che si chiama San Carlos di Bariloche, che è un enclave teutonica, cioè un paesino tirolese che sorge sul lago Nahuel Huapi, dove Priebke gestiva un negozio, un emporio che si chiama Vienna Delicatessen. Sì, ricordo che ci fu anche la polemica sul fatto di condannarlo o meno, data la sua avanzata età. Io, da questo punto di vista, sono molto rigida, quindi per me, se una persona ha commesso dei crimini, va condannato comunque. Tenga però conto che noi in questa rete a maglie larghe abbiamo beccato solo i pesci piccoli. E tutti, cioè, dalla rete a maglie piccole abbiamo beccato tutti i pesci piccoli. E tutti i pesci grossi sono scappati, perché ricordiamoci che Priebke è un ufficiale di grado superiore, cioè, ma i grossi strateghi del nazismo a Norimberga non ci sono manco andati. C'è finito un S che faceva finta di farlo scemo e qualche altro che si è avvelenato poco prima di farsi mettere il cappio al collo. ma tutti quelli di cui noi non siamo certi che siano morti nel momento in cui sono detto che morivano, dove sono finiti? Già. I vari Himmler, Hitler, lo stesso Hess, non abbiamo una serie, Bormann, abbiamo una serie di persone della cui morte non siamo certi né potremo mai esserlo, e sono stati visti più volte in giro per il mondo. Uno di questi luoghi dove venivano individuati era spesso, sempre più spesso, l'Argentina, dove Perón li accoglieva a braccia aperte, basta che pagassero cassa. Ho capito. E sempre ritornando ai due protagonisti, leggendo i suoi libri, dove questi due protagonisti, Sara Terracine e Osvaldo, sono ricorrenti, sono dei due personaggi che ricorrono in questi romanzi. Leggendo si ha il senso della continuità del romanzo, però senza quell'atmosfera che a volte in certi casi è pesante, della saga a tutti i costi. Quella. Sì, è vero, infatti sono tutti romanzi a sé stanti. Quando uno mi chiede che cosa devo leggere prima, io dico: guarda, se vuoi seguire un percorso temporale, leggi il primo e vai avanti, oppure leggi quello che ti attira di più nel titolo, insomma, quindi poi se ti piacciono andrai avanti leggendoti le avventure dei protagonisti. Io vorrei fare un piccolo passo indietro, ora vediamo quanto piccolo. Parliamo di Il cuore del profeta e l'ordine irreversibile. Sono 1991, quindi è piccolo vent'anni. Ho fatto una figlia nel frattempo, anzi due figlie, una c'ha 20 anni e l'altra 16, quindi ne ho fatte due. Sono due romanzi che lei ha autoprodotto sia nella stampa sia nella distribuzione. Poi è arrivata la telefonata del grande editore Mario Spagnol e comincia la carriera letteraria di Marco Buticchi. Oggi cosa si sente di dire? Forse sembra una domanda semplice, ma credo non lo sia. Cosa si sente di dire a un ragazzo, a un giovane scrittore che vuole farsi strada? E soprattutto quale caratteristica, al di là del talento chiaramente, deve portare avanti, deve tenere presente per avere successo? Al di là del talento, se posso dire una parolaccia, una gran fortuna. Perché non... Al di là del talento non vedo altre vie. Quello che mi sento di dire, quello che dico tutti i giorni alle persone che mi interpellano, di non cadere nei facili trabocchetti degli editori a pagamento. Mario Spagnol, la persona che lei ha ricordato, mi disse una cosa una volta di cui feci tesoro. Si ricordi, Buticchi, mi disse, l'editore deve pagare l'autore, un rapporto contrario è un rapporto senza natura. Come ligure, lui aggiunse, deve pagarlo poco. Però ecco, chiunque vada a pagare per pubblicare un libro fa un rapporto contro natura, e se proprio è convinto di valere, ma soprattutto è convinto di poter lasciare, perché guardi, quando io pubblicai i miei primi, li chiamo romanzetti oggi, e allora erano una stilla di sangue, quando li pubblicai non pensavo a milioni di lettori, pensavo a lasciare, da dire tra 100 anni, guarda il nonno, che cosa ha fatto, perché tenga presente che noi perdiamo la memoria familiare alla seconda generazione, lei si ricorda a malapena ciò che fece suo nonno, se invece qualcuno l'avesse scritto, la memoria delle nostre famiglie rimarrebbe integra. Una volta la gente si raccontava davanti alle fiabe la saga dell'esistenza familiare, una cosa che noi abbiamo perso perché siamo diventati tecnologici, però ci siamo inariditi sul passato. Ecco cosa bisogna fare, pensare di lasciare, pensare di scrivere per piacere, poi se arriveranno anche milioni di lettori ben vengano, però intanto uno lascia qualcosa, e per lasciare qualcosa è inutile andare a pagare in giro, ormai con le capacità di internet possiamo regalarci un libercolo in mille modi, quindi uno va in rete, si stampa quello che gli pare e lo regala ai parenti a Natale. Ecco, questa qui è una cosa da fare, piuttosto che andare a pensare a sogni di gloria e farsi irretire da editori improvvisati che cercano soltanto di fare leva sui nostri sentimenti e sulle nostre speranze. E direi anche sui sogni poi che uno ha. È molto importante che lei abbia detto questo, perché fioriscono, se ne vedono continuamente sedicenti editori. Ne capitano a me, Andri. Se non sa quanti ne capitano a me. Ma senti, ma mi ha detto questo, dico, ma lo paghi o ti paga? Ma poi anche gratis, ma se lo paghi non va, c'è qualcosa che non va bene. Come dire, io vado a comprare, vado a fare la spesa al supermercato e mi danno 50 euro, no? C'è qualcosa che non funziona, se devo andare devo pagare, se io invece rendo un servizio voglio essere pagato, poco come diceva Spagna, ma pagato. Un'ultima domanda, poi la lasciamo libera perché, anzi, la ringraziamo per essersi ritagliato questo tempo per Radiolibriamoci Web. Le chiedo, lei ha viaggiato moltissimo, Africa, Stati Uniti, Medio Oriente, Europa. Cosa ha portato da questi viaggi, oltre che una conoscenza tangibile di questi paesi e culture, ma cosa ha portato come souvenir particolare che l'ha arricchita nella sua creatività? Oggi la paura di volare mi è venuta, che devo dire, vincerò presto, però comunque rimane, è una cosa che rimane, no? E non l'ho mai avuta. Ma soprattutto i profumi, gli sguardi della gente, il capire determinati meccanismi di vita. E badi bene che quando dico l'infarinatura generale della conoscenza del viaggiatore è una cosa, lo studio per poter descrivere un luogo è un altro. Se io devo dire che è passato Central Park, il mio protagonista che scappa gira a destra, alla seconda destra, devo leggere, studiare che la seconda destra è la 57esima ovest, perché altrimenti non avrò questa memoria. Posso aver visitato New York mille, mille volte, ma sapere che la seconda destra è la 57esima è molto difficile. Ecco quello che dico, cioè, vai in un paese, sì, d'accordo. Infarinati, conosci, guarda gli occhi della gente, capisci gli umori, ascolta i profumi, ascolta i rumori, ma quando torni a casa lo devi riscrivere, mettiti davanti a un libro e descrivilo così. Bellissima chiusa, la ringraziamo e buon proseguimento, buon lavoro. Grazie, grazie a voi e buona giornata. Grazie, Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.